Buonasera a tutti, bentornati sul Radio Live Session. Oggi, come sempre, il programma di Rock, Claudio alla voce, Giangi alla regia. E questa sera vi promettiamo che vi faremo saltare tutti sulla sedia. Dalle ultime puntate abbiamo fatto qualcosa di abbastanza tranquillo, questa sera invece ci scateniamo e cominciamo subito con gli Halloween, Mr. Torture. Come promesso, non ci si può rilassare un attimo questa sera. Questi erano gli Halloween, Mr. Torture. Andiamo avanti con gli Anthrax, Madhouse. I'm leaving alone. Questi erano gli Anthrax, questo è sempre Radio Live Session, io sono sempre Claudio e a mixare dischi, come si dice, c'è Gianji. Il prossimo gruppo sono gli Accept, Ahead of the Pack. Mentre siete belli pimpanti e belli scaldati da questa musica, vi invitiamo a attaccarvi, collegarvi, scrivere qualcosa comunque sulla nostra chat. Noi siamo qua per leggere i messaggi e fateci sapere cosa ne pensate, diteci qualcosa. Noi andiamo avanti con gli Angel Dust. Enjoy! We'll be right back. Enjoy, e noi speriamo che sia di vostro gradimento questa scelta musicale, questa parte un po' più hard. Andiamo avanti, Rockhead, Sleepwalk. Questa sera non c'è veramente un attimo di tempo per rilassarsi. Monster Magnet, Redemption Bay. We'll be right back. lasciamo i Monster Magnet e andiamo a combattere col fuoco con i Primal Fear, Fight the Fire. Fight the Fire, Primal Fear. Andiamo avanti con una dolce malinconia. Ce la presentano i Mind Riot, Sweet Melancholy. I don't wanna questa è Melanconia, Malinconia, viva la malinconia, è un Mind Riot. Vi ricordo che siamo sempre su Radio Live Session, vi ricordo che la chat è sempre attiva, quindi se qualcuno vuole scrivere qualcosa saremo ben lieti di leggerlo e di salutarlo in diretta. Continuiamo con i Nine Inch Nail, Lust. Non un attimo di respiro questa sera, questa è sempre la Radio Live Session e adesso andiamo ad ascoltarci un gruppo a me particolarmente caro, la canzone è Crawling, loro sono i Linkin Park. Crawling in. controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that it's just too much pressure to take. I felt this way before. Beside my own reflection, it's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that it's just too much pressure to take. I felt this way before. So insecure. Questo era Crawling dai Linkin Park, un altro gruppo abbastanza recente che a noi piace molto. Si tratta dei Nickelback, How You Remind Me. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. You remind me. this is how you remind me. This is how you remind me. E lasciamo anche Nickelback, How You Remind Me, passiamo a un personaggio molto molto particolare, si tratta di Marilyn Manson, The Fight Song. Questo è sempre Radio Live Session, questo era Marilyn Manson, The Fight Song. Andiamo avanti, siamo quasi alla conclusione della nostra ora, questi sono i The Union, Do Your Own Song. programma, abbiamo ancora un paio di brani da mettere chiaramente, il prossimo è dei Metallica, The Was Just Your Life. Bene, anche per questa sera siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con la storia del rock. Claudio alla voce, Giange alla parte tecnica, vi ringraziano per l'ascolto. Passiamo il microfono a Raff & Joy e vi diamo appuntamento la prossima settimana, come sempre a lunedì, e vi lasciamo con il Judas Priest, All Guns Blazing. Mass directs the ground bending. bene, allora questo era l'appuntamento dei History of Rock condotto da Claudio e JJ da questo momento su Radio Live Session. In compagnia vi terrà il DJ Raf & Joy.

the tempted, who fulfill the needs in party life, know the temptation, the heavenly trip, la vida narcótica. We'll be right back. allora siete sempre in compagnia di Radio Live Session. Questo qua è il programma Style Our Body condotto da Raff & Joy. Salutiamo tutti quanti gli ascoltatori connessi on streaming, sperando di esservi rilassati durante questo ponte del 2 giugno. E noi andiamo avanti, ancora musica da Radio Live Session. I'm La parola non ha né sapore né idee, ma due occhi invadenti che perdono l'idea. Se non ha anima, this time, and only this time, we allow ourselves to go. To go fucking wild! Style Arbadi su Radio Live Session. Rough Joy. Ricordiamo anche gli appuntamenti per domani pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 col programma Style Arbadi, dalle ore 20 alle ore 21 col programma Hard Forum, dalle ore 21 alle ore 22 col Dance Revival con DJ Vultis e dalle ore 22 alle ore 23 con Grim in Melody. Bene, allora siete sempre in compagnia di Radio Live Session, questo qua è il programma Style Our Body con Raf e Joy. Allora, ciao Raf. Ciao a tutti. La tua prossima data, se puoi dirla agli ascoltatori. Io posso dirla, questo sabato 6 giugno alla discoteca Sasha di Premosello Chiovenda, provincia di Verbania. Quindi mi raccomando tutti quanti presenti ad ascoltare Raf & Joy. E adesso a mio fianco arriva un'altra voce su Radio Live Session. Passo il microfono ad Oggy. Buonasera a tutti, agli amici in ascolto. Lo zio Doggy è arrivato insieme allo zio Raf. Come sempre il nostro viaggio continua fino alle ore 23 con l'art style più marcia d'Italia. revolution will not be televised. The revolution is here. Yeah. Thank you. Yeah!

I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. I want you to get mad. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Doggy, vieni qua che salutiamo i pochi rimasti, che ormai si è fatta ora. Per farglielo risentire che non erano attenti, abbassiamo la musica. Ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo di nuovo, anzi ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 21. Per la peggiore Doggy è tutto, buonanotte a tutti, a presto, ciao!